Ed io, tra di voi, sono sangue. Una strada asfissiata dal bitume, distante dal vostro, distante. Deserto nel vostro presente. A tavola con prostitute, overdosi di felicità. Mi scoppiano le vene a vedere la vostra città. Ed io tra di voi le botti piene, mentre fuori si umilia l'umiltà. Bevande per bevitori di gas, lascia passare per uscieri, per trans, di sesso assetati di sesso, omosessuali che sputano un osso, bianchi respiri flagelli, coriandoli faziosi bordelli. Tra marciapiedi roventi, camminare è solo un peccato, randagio mi ha solo ferito, perché il fumo la dignità ha offeso, naufragio di un mondo annunciato, popoli senza pretesa né fiato. Chi cieco annuncia il vedere, sputa verità assassine. Ucciso, più volte ucciso, in ogni chiesa accoltellato, divorato d'anime divorato, nell'odio abbagliati dall'odio, diluvio di tempeste, diluvio, fiumi prosciugati dal buio, dottori con le chiavi inglesi nel cervello, operano su cadaveri e gridano il mondo è bello. Chilometri di litanie stuccano statue di carne a variate latitudini per sentieri, blackout, la verità nascosta, trucidata dalle pialle che copiano, incollano, piatte come soglie di inutili arroganze, coperte di menzogne ai banconi di un bar. Per cercare solo rogne, si nutrono di banalità per nascondere l'ignomia. Non siamo tutti uguali di fronte alla pazzia. Ipocriti, cantate il vostro inno, esultate. La terra vi sta succhiando, il midollo, la vostra sete. Non vi resterà più il tempo per sventrare altri occhi. Cantate al vostro Dio i vostri furti, i vostri trucchi, che il vostro regno non ha valore. Brindate il vostro squallore, sia maledetto il vostro cuore, che la giustizia ha un solo nome. Sia maledetto il vostro avere, il vostro vivere, il vostro rubare. Chi odia il mondo è morto, la sua vita non ha nessun valore.